storia e la memoria di Dino Pesole. Un testimone di primissimo piano della Resistenza, una vita spesa nella difesa dei valori costitutivi della nostra Repubblica, con forza e determinazione, grande passione civile che ha trasferito nelle sue varie esperienze all'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ma anche nella fondazione della Casa della Memoria e della Storia. Stiamo parlando di Massimo Rendina, il comandante Max, partigiano combattente contro il nazifascismo, storico e giornalista, scomparso lo scorso 8 febbraio all'età di 95 anni. Giornalista, scrittore, Massimo Rendina è stato il primo direttore del telegiornale Rai. Per rievocarne la figura, l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi ha organizzato giovedì scorso a Roma un incontro al termine del quale è stata consegnata ai figli copia della registrazione integrale dell'intervista raccolta dall'Istituto Centrale il 20 giugno del 2007. Ascoltiamo questo passaggio dell'intervista. Nell'enciclopedia dell'antifascismo pubblicata dal Comune di Bologna io figuro tra gli antifascisti. Probabilmente non lo sapevo neppure, cioè c'era un'intolleranza, c'è tutta una storia che va riferita alle stesse organizzazioni fasciste. Nessuno si rende conto, tra le nuove generazioni che non conoscono ovviamente molto bene quel meccanismo, si rende conto come all'interno del fascismo ci fosse una certa libertà. La libertà della barzelletta, della sfottitura, soprattutto nel mondo giovanile, universitario, i giornali stessi. Io ho scritto su un giornale fascista che si chiamava Architrave, che ormai la guerra era perduta e nessuno mi ha detto niente. Dopo un po' l'hanno chiuso il giornale perché avevamo poi accentuato questa nostra azione che diventava antifascista e non dal punto di vista così storico, no? Quello che è incredibile è che appena tu varcavi la soglia del GUF o della sede fascista e dicevi che magari dubitavi un po' sulla guerra, ti beccavi 5 anni di confino. Ecco, Massimo Rendina poi illustra così la genesi del suo antifascismo. Ci sono delle generazioni che non hanno avuto nella scuola un'informazione sulla Resistenza. Quasi quasi i figli, i nipoti oggi vogliono riconquistare un terreno perduto. E questo lo vedo, lo constato nel... Voglio dire che questa rimozione prese anche me. Non è da molto tempo, da moltissimo tempo, sì, ormai saranno 20 anni che mi occupo dell'associazione partigiana, ma prima non volevo sapere proprio assolutamente, cioè avevo chiuso quella stagione dentro di me perché era una stagione estremamente dolorosa e poi mi poneva anche dei grossi problemi se avevo agito in un certo modo, in un altro. Noi siamo stati presi da dei doveri, soprattutto quando uno aveva qualifica di comando, di doveri molto diversi da quelli che possono muovere la coscienza militari in un certo ordinamento. Bene, buonasera e benvenuto a Massimo Pistacchi, direttore dell'Istituto dei Beni Sonori e Audiovisivi. Grazie per aver accettato il nostro invito, direttore. Grazie a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, ci illustri un po' meglio il senso di questa iniziativa che si è svolta 2 giorni fa proprio nel vostro istituto nel rievocare una figura così importante come quella di Massimo Rendina. Sì, questo inizio della trasmissione mi sembra che sia molto pregnante e molto illustrativo della grandissima personalità di Rendina. Questa intervista, io la ricordo, è stata rilasciata nel 2007, ma presenta l'immediatezza, la capacità di rendere tutto nella vivacità del racconto, di farlo sentire dopo tanti anni. Ebbene, questo è tutto un merito di Massimo Rendina, perché questa intervista, come dire, rivela moltissimo del grande personaggio che era e soprattutto della grande vita che lui fece. E la cosa che vorrei sottolineare è proprio il carattere forte che lui dà al racconto, nel senso che le grandi questioni della resistenza, della guerra antifascista e partigiana, delle scelte, della presa di coscienza e via di seguito, sono affrontate con una, come dire, con una capacità di renderla nel concreto, senza alcuna retorica. E questo secondo me è un merito del grande Massimo, e in fondo, se vogliamo, è un merito anche dello strumento con cui noi siamo riusciti a, come dire, fissare nel tempo la sua testimonianza, che è quello dell'intervista. Ecco, a proposito di questo, proprio dello strumento dell'intervista, l'istituto da lei presieduto è in questo senso, come dire, una testimonianza vivente delle fonti orali. Ecco, che importanza hanno le fonti orali nella nostra storia e anche nel vostro lavoro quotidiano? Sì, diciamo che le fonti orali sono una caratteristica, una competenza specifica dell'Istituto Centrale, e devo dire quasi dall'origine, quando ancora si chiamava, forse molti radioascoltatori la ricordano come la discoteca, vecchia, di Stato, discoteca, cioè, di Stato, sì. Ma la cosa importante è questa: nel nostro paese la fonte storica orale, così ricca invece di densissima di informazioni, ha fatto fatica a imporsi a livello storico, parlo. Ha fatto fatica a imporsi perché una certa caratteristica della nostra cultura e in fondo anche della nostra storiografia è quella di essere sempre ricorsi alla fonte scritta, cartacea insomma, sia il documento d'archivio sia il libro. Ultimamente invece, e parlo a partire dagli anni 90, anche grazie a tutta una serie di convegni, di iniziative che sono state fatte, la fonte storica e soprattutto l'intervista di tipo storico, che lei sa bene che di interviste ce n'è una per ogni materia, certo, ma l'intervista storica è materia invece molto delicata, che va preparata, che va impostata, che non ha nulla dell'attualità, che tende a fissare relazioni tra vari comparti, lasciando, e questa è una cosa che vorrei sottolineare, lasciando all'intervistato, in questo caso Massimo Rendina e a quant'altri, tutto il tempo necessario per, come dire, adesso uso una frase un po' così, per fluttuare nel ricordo, perché questa è la grande differenza. Sono interviste, racconti, narrazioni che vengono registrate ma senza un tempo, senza un limite. Poi varia di volta in volta, perché poi spesso i limiti, le riserve, addirittura certe omissioni vengono poi effettuate dallo stesso intervistato, ma insomma è una cosa bellissima. L'insieme di queste testimonianze, e adesso sarebbe troppo lungo, annoieremo gli ascoltatori, ma che partono, ripeto, intorno al 25, e poi intendo dire le nostre raccolte di interviste passano dagli anni 80, gli anni 90, con i rapporti con l'archivio storico della Camera dei Deputati, con la Radio Televisione Italiana, con Radio 3, con Radio 24 peraltro, che penso lei ricordi bene, sì, perché sì, abbiamo sì, fatto anche un bellissimo ciclo di interviste di tipo storico. Forse quello che non sanno i nostri ascoltatori è che questo patrimonio è un patrimonio pubblico, cioè chiunque può venire da voi e richiedere, ad esempio, di ascoltare delle testimonianze orali anche del passato, molto anche del passato non proprio remoto, insomma, anche quindi... anzi prossimo, direi. Il passato prossimo. La cosa importante è perché l'intervista sono intervideo, proprio un vedersi tra persone, lo stesso nome lo ricorda. Bisogna anche da parte di colui o colei che viene qui ad ascoltare l'intervista, ci sia una certa disponibilità. Ebbene, non c'è certo l'intervistato di fronte, ma deve entrare nel gioco dell'intervista storica, che appunto che richiede una disponibilità di tempo e di attenzione. Non si arriva al dunque immediatamente. Su questo l'intervista, il racconto di Rendina è bellissimo, soprattutto per quanto riguarda la sua presa di coscienza e quasi la sua, come dire, reazione all'aver visto come combattente in Russia la dittatura che perseguitava i singoli, le popolazioni, i deboli. E questo è uno dei motivi che spinge poi Rendina, l'abbiamo sentito, a diventare resistente antifascista. Sì, veramente, nella pratica. E poi, ecco, in un minuto, perché abbiamo quasi finito il nostro tempo, voi avete raccolto anche molte altre testimonianze di personaggi che hanno illustrato la vita pubblica italiana. Ad esempio, ricordo, non so, Andreotti, ma anche Ciampi. Sì, fu l'ultimo progetto dedicato alle figure dei senatori a vita, diciamo con Carlo Azeglio Ciampi, che fu una splendida intervista, ma con lo stesso presidente Giulio Andreotti, che non era poi la prima volta che rilasciava un'intervista, ed ebbe modo poi di sottolinearlo, perché fino all'ultimo, come voi sapete, aveva una memoria, lei stesso penso che lo sa bene, aveva una memoria prodigiosa. E poi ricordo ancora Romana De Gasperi, per esempio, Gabriele De Rosa con l'Istituto Tuzzo. Quindi, insomma, delle testimonianze preziose, e ricordiamo appunto ai nostri ascoltatori un patrimonio di tutti noi. Grazie al direttore Pistacchi e buona serata. Grazie a tutti, arrivederci.